Era il 6 luglio 1415. Il condannato Jan Hus veniva portato al rogo. Ecco come il suo segretario e compagno nell'ultimo viaggio descrive la cronologia di quell'avvenimento. Gli aguzzini accesero prontamente il rogo. Il maestro prese a cantare a voce spiegata, dapprima il canto «Cristo, tu figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi», poi l'inno «Cristo, tu figlio del Dio vivente, abbi pietà di me», ed infine l'inno «Tu che nascesti dalla Vergine Maria». Ma come egli cominciò a cantare il terzo inno, una folata di vento gli coperse il viso di fiamme. E così, pregando nell'intimo, muovendo appena le labbra e scotendo il capo, spirò nel Signore. Prima di morire, mentre pregava in silenzio, sembrò balbettare giusto per il tempo sufficiente a recitare due o, al massimo, tre volte il Padre Nostro. Poche preghiere, come quella del Padre Nostro, è così sentita da coloro che si professano cristiani. Per prima ragione, esso proviene direttamente dall'insegnamento di Gesù, inoltre è una preghiera modello, infine è essenzialmente una forma embrionica di teologia sistematica, al punto che Jan Hus sembra l'abbia recitata anche in punto di morte. Egli voleva morire, pregando con le parole insegnate da Gesù. Che con lo spirito giusto possa pure essere l'esperienza di ognuno di noi. Perché? Con lo spirito giusto. Perché, come vedremo, anche se le parole della preghiera del Padre Nostro sono state insegnate da Gesù, ciò non significa che la semplice ripetizione sia lecita, come non è sufficiente perdonare al prossimo i torti ricevuti senza che vi sia una sincerità di animo, solo perché Gesù lo ha ordinato. Perciò, anche se la preghiera del Padre Nostro viene formulata da protestanti, cattolici, ortodossi e da altre innumerevoli persone, non significa che sia ascoltata da Dio come non erano ascoltate da Dio le innumerevoli preghiere espresse dai sacerdoti al tempo di Gesù. Quando una preghiera non è ascoltata? Quando è solo una formula liturgica, Massinemeti 6.7. Quando si hanno delle intenzioni malvagie, SL 66.18, quando non si ha a cuore il desiderio di compiere la volontà di Dio, PR 28.9, quando non si onora il proprio coniuge, 1 Peter 7, quando si dubita di possedere la giusta sapienza, se questa è stata chiesta. Anche la preghiera del Padre Nostro è soggetta a queste leggi. Inoltre, benché il Padre Nostro sia la più amabile delle preghiere, invano ne cercherete la minima traccia nel Libro degli Atti o nelle Lettere degli Apostoli. In circa 3 anni di intenso insegnamento, Gesù ha dato innumerevoli ordini e istruzioni in ogni settore della vita umana, ma in merito alle parole da impiegarsi nella preghiera, solo gli evangelisti, Matteo e Luca, le citano. Tutto sarebbe risolto se non fosse che le esposizioni di Matteo e Luca in merito non combaciano esattamente, tanto è vero che alcuni ne hanno approfittato per dimostrare, meno con ragionamenti viziati, che la Bibbia quale parola di Dio non è attendibile. Per questi detrattori della fede cristiana possiamo tuttavia mettere della legna sul fuoco. Per prima cosa tutta la Scrittura presenta questo aspetto. I Vangeli poi non ce n'è uno uguale all'altro. Cosa dire? Che sono stati manipolati o che gli evangelisti abbiano modificato il testo e la tradizione per riformularla con parole proprie. Una lunga risposta servirebbe a poco, perché quando ci si arrocca su una posizione, difficilmente si è disposti a lasciarla, nonostante si possa anche essere disposti a ascoltare l'opinione contraria. Perciò ritengo opportuno porre solo una domanda. 4 persone... come gli evangelisti Matteo, Marco, Luca e Giovanni, desiderando di esporre dei fatti razionalmente difficili da accettare, non cercherebbero farne delle descrizioni corrispondenti con il proposito di essere creduti? Chi sarebbe quello stupido che, scrivendo una cronaca nello zelo di essere creduto, contraddirebbe un'altra versione redatta da un altro? Non si conformerebbe, invece, a registrare una versione esatta alla precedente? Per quanto si possano ritenere gli evangelisti dei sempliciotti, è possibile che abbiano esposti i fatti riguardanti Gesù così, alla rinfusa, sapendo, inoltre, che stavano esponendo una nuova religione sconvolgente per la cultura religiosa e politica del mondo, non passa per l'anticamera del cervello alle persone per bene che gli evangelisti abbiano scritto gli stessi avvenimenti, presentando aspetti diversi della persona di Gesù. Se Matteo inizia il suo Vangelo mettendo subito in evidenza che Gesù è figlio di Davide e di Abramo, evidenziando in tal modo che Gesù discende dalla regalità del re Davide e dalle promesse di Abramo, e se Giovanni inizia il suo Vangelo dicendo che Gesù è Dio mettendo in evidenza la divinità di Gesù, vi è forse contraddizione? Non vi è invece complementarietà? E è questo quello che i quattro evangelisti hanno fatto. Altro esempio. Se Matteo racconta che alla morte di Gesù, sulla croce, accanto a lui erano crocifissi due ladroni che lo insultavano, mentre Luca riferisce che uno di questi si pente, vi è forse contrarietà? Mettendo insieme i fatti, non si conclude forse che i due ladroni all'inizio insultavano Gesù, tuttavia in seguito uno di loro si pentì e chiese perdono? La Bibbia non si contraddice, ma contraddice coloro che vogliono screditarla. Dunque, abbiamo due versioni della preghiera del Padre nostro. Qual è la giusta? Anche se alcuni si sono rotti la testa per provare a rispondere, la risposta è facile, quella più lunga. Perché? Perché nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe osato aggiungere delle parole a quelle proferite da Gesù. Mentre è possibile, meno, anzi, così è meno aver omesso qualcosa di tutto quello che è stato detto o scritto. Lo abbiamo visto nel caso dei ladroni sulla croce. È evidente che l'evangelista Luca aggiunge, rispetto a Marco, il particolare riguardante il successivo pentimento di uno dei due briganti, mentre il silenzio di Marco non nega ciò che Luca ha scritto. Mi rendo conto che non è facile accettare intellettualmente l'ispirazione verbale della Bibbia, e il problema delle apparenti contraddizioni è un ostacolo non indifferente. In merito, io posso solo dare la mia testimonianza. Quando posi fede in Cristo, quale mio unico Signore e Salvatore, al quale solo rivolgere le mie preghiere, vedevo molte apparenti contraddizioni nei Vangeli, una delle quali mi pareva veramente insormontabile. Si tratta delle iscrizioni sulla croce. Perché? Perché un fatto lo si può raccontare in vari modi, ma una iscrizione no. O era scritta in un modo o in un altro. Infatti nel Vangelo di Matteo 27.37 troviamo che sulla croce, al di sopra della testa di Gesù, era scritto «Questo è Gesù il re dei giudei», mentre Marco 15.26 riporta solamente il re dei giudei, in Luca 23.38 troviamo «Questo è il re dei giudei», mentre nel Vangelo di in Giovanni 19.19 si legge «Gesù il Nazareno, il re dei giudei», quindi non una scritta uguale all'altra. Chi aveva riportato la scritta giusta? Dopo vario tempo e molta preghiera per avere una risposta, Dio mi fece comprendere che nessun evangelista aveva torto, perché nessuno aveva riferito esattamente tutta l'iscrizione. Infatti la scritta sovrastante Gesù e indicante l'atto di accusa in virtù del quale fu appeso alla croce era «Questo è Gesù il Nazareno, il re dei giudei». L'iscrizione sulla croce rispecchia fedelmente ed esattamente la struttura letteraria della Bibbia. Chi di noi direbbe a qualcuno non rispondere allo stolto secondo la sua stoltezza? Per non diventare anche tu come lui, per poi dire subito di seguito, rispondi allo stolto secondo la sua stoltezza, perché non creda di essere saggio. Chi ascolta penserebbe che il suo interlocutore si stia contraddicendo. Non è vero? Eppure, tale ordine proviene dalla Bibbia, dal libro dei Proverbi. 26.45. Il punto è questo. O l'autore non sa quello che scrive, meno, e in questo caso buttiamo via la Bibbia. Oppure occorre comprenderla nel suo insieme e smetterla di sostenere che la Bibbia è piena di errori. Come sono le due versioni della preghiera del Padre nostro? Quella che si trova nel Vangelo di Matteo si articola così. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane necessario. E perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché tuo è il regno e la potenza e la gloria in eterno. Amen. MT 6.9.13. Mentre quella del Vangelo di Luca è: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario. E perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. DLC 11.24. Come si nota? Subito non vi sono poi delle grandi differenze e, per quanto mi riguarda, benedico Dio perché la preghiera non è esattamente uguale in tutti e due i Vangeli, perché, se al tempo degli Apostoli tale preghiera fosse stata insegnata come una formula liturgica da ripetere meccanicamente o da recitarsi a memoria, la versione di Luca corrisponderebbe esattamente a quella di Matteo. Un po' come l'Ave Maria. In tutto il mondo la si recita in una certa maniera e sarebbe assurdo trovare una Ave Maria diversa da quella che conosciamo. Chi mi ascolterebbe se io o un altro proponessimo un'Ave Maria diversa dalla solita? Così, chi avrebbe ascoltato l'Evangelista Luca se il Padre nostro non fosse stato esattamente come quello di Matteo? Questi particolari non dovrebbero far riflettere seriamente coloro che recitano il Padre nostro, come se Gesù ne avesse ordinato la ripetizione sistematica durante la liturgia, o contenesse un potere taumaturgico o psicologico. Perché non ascoltare il discorso di Gesù per verificarne la volontà al riguardo? Ora, nel pregare non usate inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Non usate inutili ripetizioni, o come troviamo nella Bibbia, concordata, non moltiplicate le parole. Ecco l'ordine di Gesù. Ecco l'errore nel ripetere il Padre nostro. Non nella sostanza, ma nella forma. Chi non ha compreso questo riceve la medesima condanna espressa da Gesù nei confronti dei religiosi suoi contemporanei. Dei religiosi, non degli increduli. La preghiera del Padre nostro presenta due parti chiaramente differenti. La prima riguardante Dio comprende l'invocazione al Padre e tre richieste relative al suo nome, al suo regno e alla sua volontà. La seconda si occupa di necessità dell'uomo, il pane, il perdono e la protezione. Già questa constatazione evidenzia il volere di Dio prima di tutto, che la nostra volontà debba essere rivolta a tutto ciò che riguarda il nostro Creatore e, solo in seguito, a ciò di cui abbiamo necessità su questa terra. Constatazione del resto in armonia con l'ordine di Gesù. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. MT 6.33. E questo è il nostro atteggiamento, dicendo prima: Gesù non esige per tutti i credenti una vita pienamente consacrata alla sua causa a discapito di quella secolare, ma il suo comando è che nel cuore dei suoi discepoli vi sia un continuo desiderio di testimoniare di lui, sia con le parole, sia con gli atti. Così il mio lavoro, in fabbrica, nei campi o in ufficio, sarà prima di tutto svolto in modo tale da far risaltare la differenza agli occhi degli altri. Quando una collega di lavoro mi chiese perché io ero diverso dagli altri operai, avevo ottenuto lo scopo principale della mia esistenza. Non molto tempo dopo si arrese a Cristo. Ecco come deve essere meditata la preghiera del Padre nostro. Le prime tre richieste devono essere l'anima che ci accompagna nella nostra esistenza terrena, diversamente rimane solo uno studio accademico fine a se stesso. L'unica preghiera da formularsi, insegnata da Gesù ai suoi discepoli e quindi a tutti coloro che hanno posto fede in lui, inizia con la parola Padre. Alcuni teologi hanno fatto notare che questo termine, applicato alla divinità non era completamente nuovo, perché già prima di Cristo le scritture insegnavano che Yahweh, l'unica divinità di Israele, era il padre di Israele, DT 32.6, Is 63.16, 64.8, ML 1.6. Nulla di apparentemente particolare, anche perché nelle religioni dell'Antico Oriente e dell'antichità greco-romana ha il suo fondamento nella visione mitica di una generazione primordiale e di una provenienza fisico-naturale di tutti gli uomini da Dio. In questo senso, il dio El degli Ugariti è chiamato padre dell'umanità. La divinità lunare babilonica Sin, padre e generatore degli dei e degli uomini, e, in Grecia, Zeus, a cominciare da Omero, padre degli uomini e degli dei. Dizionario dei concetti biblici del Nuovo Testamento, Deoniane 1976, p. 1136. Ma qualcosa di diverso c'era, perché la differenza fondamentale con la concezione di Dio Padre del mondo religioso vicino a Israele sta nel fatto che nell'Antico Testamento la paternità di Dio non è intesa in senso biologico, oppure mitologico, ma in senso soteriologico, Pit 1137, cioè di salvezza. Cosa, questa, che i popoli antichi non avevano. Perciò, quando Gesù insegnò di rivolgersi a Dio come Padre, dobbiamo escludere che stesse indicando il Padre quale prima persona della Trinità. Eppure, questo è il concetto più comune, un concetto influenzato dalla rivelazione di Cristo stesso. Cioè che tre persone uguali e distinte, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sussistono in un'unica natura divina. Nonostante questa rivelazione, i credenti in Cristo, leggendo il termine Padre, lo associano automaticamente e solamente alla prima persona della Trinità, ma i teologi mettono in evidenza che questo è un errore. Prendiamo in prestito uno scritto di C. Journet, dal titolo L'Église du Verbe Incarné. In merito alla Trinità egli scrive: se la Trinità risiede in se stessa e se le persone divine esistono pienamente una nell'altra, bisogna concludere che il nome di Padre, quando è dato alla prima delle persone divine per designarle in ciò che ha di proprio, non può essere pronunciata che dalla seconda, o se è pronunciata da noi non sarà se non per designare il rapporto fra la prima e la seconda persona. Se dunque è accordato a me creatura, per qualche meraviglioso mistero di grazia e di potere, rivolgendomi verso Dio di pronunciare il nome di Padre, ciò sarà in due modi ben differenti. O rivolgendomi alla prima delle persone divine in ciò che ha di proprio per salutarla come il Padre del Figlio, oppure rivolgendomi all'essere infinito che mi ha dato la vita naturale e soprannaturale per salutarlo come mio Padre che mi ha creato o generato nel tempo. Perciò la parola Padre non ha, qua e là, il medesimo senso. Dopo aver fatto due esempi di preghiera, continua col dire: nel primo caso, la parola Padre designa unicamente la prima persona divina, nel suo rapporto necessario con la seconda. Nel secondo caso, la parola Padre designa tutta la Trinità, nel suo rapporto contingente con le creature. Questi due significati della parola Padre sono essenzialmente differenti. Tuttavia non sono equivoci. Vedi anche Le vicende della teologia, Roderick A. Finlayson, Claudiana 1980, pag. 14. In questo discorso un poco articolato ma inevitabile, Journet ha espresso qualcosa che per molti è veramente innovativo. Mentre ha iniziato col dire che il termine Padre ha due significati diversi, a seconda che sia pronunciato da Gesù o da una creatura, ora il teologo mette in evidenza che la parola Padre nel Nuovo Testamento significa anche tutta la Trinità. Così, il termine Padre, benché sia unico, ha due significati essenzialmente differenti, pur non essendo equivoci. Questo significa che, quando nel Nuovo Testamento leggiamo il termine Padre, dobbiamo di volta in volta scorgervi non solo la prima persona della Trinità, ma anche la Trinità intera. Cosa non facile per chi non ha una mente trinitaria e non è abituato a fare delle differenze sulle parole, ma l'esaminare di volta in volta a chi sia riferito il termine padre, è compito doveroso di un credente, affinché possa comprendere prettamente il pensiero di Dio. Perché questa precisazione? Perché, in considerazione dei vari significati del termine padre, di fronte all'insegnamento a rivolgerci al Padre lasciatoci da Gesù, non dobbiamo pensare di essere invitati a indirizzarci solo alla prima persona della Trinità. A chi allora siamo stati guidati da Gesù, se non la prima persona della Trinità? Chi è dunque il Padre al quale dobbiamo le nostre orazioni? La risposta è più facile di quello che sembra. Il Padre al quale dobbiamo rivolgerci è tutta la Trinità, la quale è paterna nei confronti della creazione e creatura. Si potrebbe obiettare che questa precisazione serve a poco o a niente, perché se si pensa di pregare la prima persona della Trinità, alla fine ci si rivolge a Dio. Ma se la stessa parola di Dio fa delle differenze, chi sono io da annullarle? Se le tre persone divine sussistono nella stessa natura divina, ma distinte come persone, chi sono io da non fare una differenza? Se una persona è il Padre, se l'altra persona è il Figlio, e l'altra ancora è la persona e lo Spirito Santo, perché devo fingere di non riconoscerle diverse? E che i teologi chiamano Trinità economica? E se le parti svolte da ciascuna delle tre persone della Deità sono distinte tra loro nell'opera di salvezza, perché devo fare di tutte le erbe un fascio? Se Gesù ha detto di rivolgerci al Padre nostro, cioè a tutte le tre le persone della Trinità, perché io devo pensare di rivolgermi ad una sola? Sono domande non di curiosità o di chi vuole spaccare il capello in quattro, ma suscitate perché possiamo imparare a pensare e a leggere la parola di Dio in termini trinitari, atteggiamento indispensabile per comprendere la Scrittura, e recare una testimonianza efficace in un mondo dove vigono tre espressioni diverse di fede. Monoteista, ciascuna rivolta a un proprio Dio, privo di identità numerica. È anche vero che nel corso dei secoli il Dio Trino è stato vicino ai suoi e ha esaudito delle preghiere, anche senza una corretta comprensione teologica da parte di chi le ha formulate, ma non dobbiamo ordinandoci di pregare il Padre nostro che è nei cieli, Gesù voleva infondere nel cuore di ogni credente la certezza di ricevere, sia dalla prima persona della Trinità come dal Figlio, e altrettanto dallo Spirito Santo, la stessa cura e attenzione rivolta da un padre umano al proprio figlio. Sta scritto: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. 1 Pt 5.67. Traduzione letterale: perché a lui importa a voi. Per infondere nell'animo del credente questa attitudine paterna del Dio Trino, è sufficiente prendere in esame la persona di Gesù. Di lui Pietro dice: «E se invocate come padre colui che senza favoritismi di persona giudica secondo l'opera di ciascuno, conducetevi con timore per tutto il tempo del vostro pellegrinaggio». 1 P 1.17. Ad una prima lettura, si potrebbe comprendere che è la persona del Padre a giudicare secondo l'opera di ciascuno. Ma secondo l'affermazione di Gesù, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, GV 5.22, il giudizio spetta solo al Figlio, per cui Pietro sta dicendo che i primi credenti cristiani invocavano il Figlio come Padre. Padre, in quanto pienamente partecipe della natura paterna del Dio Trino, solo così si possono comprendere rettamente le parole di Gesù, a tutt'oggi. Ancora travisate: io sono la vita, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre, se non per mezzo di me. Il verbo viene, usato da Gesù, mette in evidenza che nessuno entra nella dimensione della Trinità, se non per mezzo di Cristo. Proprio perché è partecipe della natura paterna del Padre, i primi cristiani invocavano Gesù nelle preghiere. Così scrive Paolo alla Chiesa di Dio che è in Corinto: ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, loro Signore nostro. L'invocazione con la quale termina l'intera Bibbia conservata in lingua aramaico è Maranatha, accento grave, cioè Signore nostro vieni. Gesù veniva invocato dai primi cristiani, anche in virtù di una sua propria asserzione: se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. G.V. 14.14. E lo Spirito Santo? Lo si può invocare? Nella Bibbia non troviamo tale ordine, ma se lo si invoca certamente non è un errore, però la preghiera, più frequente sia personale sia pubblica, rimane sempre quella rivolta alla Trinità, cioè allo Spirito, a Cristo e al Padre, nella richiesta Padre nostro che sei nei cieli. Gesù ha ordinato di pregare Padre nostro e non Padre mio, perché solo Gesù, in virtù della propria relazione di figlio come seconda persona trinitaria, è figlio del Padre. E quindi Gesù è il solo a potersi esprimere in termini di Padre mio. Dal canto nostro come creature, noi tutti dobbiamo essere coscienti di appartenere alla sua grande famiglia. In effetti un errore comune a tanti figli di Dio è pensare che sia sufficiente avere una relazione personale e intima con Dio. Ma una vera relazione con Dio è impossibile non avendo contemporaneamente una relazione con gli altri figli di Dio, così come non è possibile amare Dio se non si ama il prossimo. Chi ha posto una fede salvifica in Cristo entra nella grande e universale famiglia di Dio, avendo come fratelli quelli che Dio stesso ha scelti. Perciò quando il credente prega Padre nostro, dovrebbe di continuo ricordare i propri doveri verso coloro che sono nati di nuovo e appartengono alla vera Chiesa. Purtroppo anche nel XXI secolo si pensa che tutti gli uomini siano figli di Dio, un errore. Questo dal costo molto alto e che crea non poche difficoltà nella presentazione del vero Evangelo e nei rapporti umani. Che il Padre nostro sia il Padre di tutti, e 4.6 è fuori di dubbio perché da Lui si riceve l'esistenza, ma non per questo tutti gli uomini sono figli di Dio nel senso di nati da Lui. 2000 anni fa i primi cristiani dividevano la razza umana in due grandi famiglie. L'Apostolo Giovanni lo dice espressamente nella sua prima lettera. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il proprio fratello. 1 Giovanni 3.10. Evidentemente anche al tempo degli Apostoli era ricorrente l'interrogativo in merito a chi avesse Dio per padre, la cui risposta non era tanto riconducibile alla religione d'appartenenza degli individui in questione, anche perché le religioni di oggi al tempo di Cristo non c'erano, piuttosto quanto a ciò che facevano. Per cui può invocare il Padre nostro solo colui che mette in pratica la volontà di Dio e colui che ama chi è stato da Dio rigenerato. Chi è abituato a recitare meccanicamente il Padre nostro, molto probabilmente non fa caso a questa conclusione, come del resto erano sordi e ciechi i religiosi contemporanei di Gesù. Tuttavia la verità, spesso non si dice per far cambiare opinione agli altri, ma per addossare la responsabilità di chi ascolta. Infatti così si rivolse Gesù ai suoi contemporanei: se non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero colpa. Ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato. Giovanni 15.22. Chi continua a recitare in modo meccanico il Padre nostro e in più non ama coloro che sono nati di nuovo mediante un atto di fede in Cristo è doppiamente colpevole. Per Gesù, il Padre di tutti gli uomini, è nei cieli. Ancora una volta questa verità non viene per nessun motivo ascoltata dai religiosi cattolici romani, i quali continuano imperterriti a pregare che il loro Padre è nei cieli, mentre non smettono di ritenere di avere sulla terra un altro Padre o addirittura un Santo Padre, cioè il Papa. Chi ha detto che è sbagliato considerare lecito un Padre spirituale terreno e anche santo, un anticattolico, un pignolo? Nessun essere umano ha il diritto di proibire di pensare a un uomo in termini di Santo Padre, ma Gesù sì. Ecco le sue parole. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Né fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Matt 23.8-10. Dunque, l'ordine di Gesù è di non chiamare maestro, padre e guida nessuno sulla terra, divieto al quale egli ha pure fatto seguire una motivazione, perché Cristo è la sola guida e maestro, perché ci è un solo padre, E questo padre è nel cielo. Chiaro, no? Eppure, quante persone recitano continuamente il Padre nostro? E, poi, chiamano Santo Padre un uomo terreno. Quanto è difficile togliere usanze religiose sbagliate, soprattutto per quelli che si definiscono cristiani. E è anche vero che Dio ha stabilito in ogni comunità cristiana degli uomini che svolgono il compito di conduttori e verso i quali occorre avere rispetto e sottomissione, ma questi non potranno mai essere visti da un figlio di Dio quale guida, maestro e padre. Non potranno mai rappresentare per lui un'autorità superiore a Cristo. Il cristiano segue le indicazioni di un uomo che è alla guida di una comunità quando queste indicazioni sono in armonia con la volontà del Padre che è nei cieli. Diversamente, occorre disubbidire agli uomini, anche se avessero un potere religioso a livello mondiale. In definitiva, quando si ubbidisce, non si sottostà a un uomo, ma a Dio che si serve di questi uomini. Chi ha compreso questo aspetto? L'errore megagalattico del cattolicesimo romano sta proprio nell'essersi sostituito a Dio per quanto riguarda l'autorità, atteggiamento questo che prepara da millenni credenti ingenui e l'umanità al servizio di un uomo chiamato anticristo e al quale sarà data tutta l'autorità posseduta solo da il Padre nostro che è nei cieli. La prima richiesta che ci viene indicata da Gesù nella preghiera rivolta al Padre nostro è «Sia santificato il tuo nome». Prima di prenderla in esame, bisogna ammettere la nostra incapacità a comprendere di primo acchito ciò che leggiamo, dovuta non tanto a una nostra eventuale ignoranza, ma perché il modo di parlare di 2000 anni fa non è certamente alla nostra portata. Gesù parla di santificare il nome e, già, ci chiediamo cosa significa questa richiesta. Un nome per noi è un nome e, per santificarlo, non si sa proprio cosa bisogna fare. L'ordine di Gesù, chiaro agli orecchi dei suoi contemporanei, suscita a noi dei problemi causati proprio dalla perdita di significato segnata dall'evoluzione del linguaggio. Infatti, il termine nome per gli ebrei non era una semplice scritta indicante qualcosa o qualcuno, ma esprimeva una particolare caratteristica di una persona o l'insieme della sua personalità. Per comprendere quanto si va dicendo è sufficiente leggere l'incontro di Mosè quando il Dio di Israele, Yahweh, scende sul monte Sinai per dettare i 10 comandamenti. Allora l'Eterno discese nella nuvola e si fermò là vicino a lui e proclamò il nome dell'Eterno. E l'Eterno passò davanti a lui e gridò: «L'Eterno, l'Eterno Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in benignità e fedeltà, che usa misericordia a migliaia, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non lascia il colpevole impunito e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione». Es 34.57. Da questa lettura è evidente che l'Eterno stesso non proclamò tanto il suo nome, ma fece conoscere a Mosè la sua personalità, risultato della somma delle sue caratteristiche, quali la misericordia, la lentezza all'ira, ricchezza in fedeltà e misericordia, la disposizione a e la potenza di perdonare il peccato, senza però lasciare intunito chi è colpevole. Perciò, santificare il nome del Padre è riferito a tutto ciò che caratterizza la Trinità, tutto ciò che è proprio della prima persona della Trinità, del Figlio e dello Spirito Santo. E, molto di più di qualcosa attribuibile a una sola persona divina, ma riferita a tutte e tre. Questo aspetto rende ancora una volta unico il cristianesimo perché, mentre nelle altre religioni occorre non nominare irriverentemente il nome della divinità, per Gesù non bisogna fare nulla che non santifichi le tre persone divine. Resta ora da considerare cosa significa santificare le persone del Dio Trino, anche perché questo verbo è prettamente religioso. Infatti, il verbo è composto da due parole, santo e fare, il che vuol dire mettere da parte. E per comprendere meglio questa definizione, possiamo leggere il 4° comandamento, nel corso del quale compare proprio il verbo santificare. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. lavorerai 6 giorni e in essi farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno è sabato, sacro all'Eterno, il tuo Dio. Non farai in esso alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo servo, né la tua serva, né il tuo bestiame, né il forestiero che è dentro le tue porte. Poiché in 6 giorni l'Eterno fece i cieli e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, e il settimo giorno si riposò. Perciò l'Eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Es 20.8.11. Il comando di Dio non lascia dubbi. Santificare significa mettere da parte del tempo, un giorno su 7. Semplicemente per riposarsi, per fare ciò che l'Eterno Dio ha fatto. Ancora più in breve. Santificare vuol dire fare ciò che Dio ha fatto e fa. Ecco perché l'Eterno ha detto: siate santi come io sono santo. Lev 11.44, e cioè siate come sono io, comportatevi come io agisco. Dunque, santificare il nome del Padre vuol dire comportarsi come Lui si comporta, in questo è l'onore che Gli si attribuisce. Purtroppo, il verbo santificare con il passare del tempo è stato storpiato e manipolato dai religiosi, i quali lo hanno ridotto a un uso improprio. Così, nella religione cattolica romana, meno e non solo in quella meno essere santi significa comportarsi in modo ascetico, ha il senso di osservare scrupolosamente certe regole religiose o recitare il Padre Nostro come orazione domenicale, senza però darsi la pena di esaminare se queste regole religiose siano conformi al volere di Dio. Una donna e un uomo religioso pensano di santificare il nome di Dio nel mettersi da parte e vivere in un convento isolato da tutti, quando Gesù chiese molto chiaramente al Padre di non togliere i credenti dal mondo, ma di preservarli dal maligno. I preti cattolici credono di santificare il nome di Dio quando fanno voto di castità, mentre la volontà di Dio è che i conduttori spirituali abbiano moglie e figli. Non si santifica il nome di Dio facendo ciò che ci sembra bene, ma osservando il volere di Dio in Cristo, una convinzione, per quanto possa essere forte se è sbagliata, non rende vera una falsità. Per non cadere in un concetto puramente filosofico, astratto e senza contenuti, santificare il nome del Padre significa imitare Gesù che è Dio fattosi uomo, laddove ogni altro punto di riferimento diventa pure idolatria. Coloro che vogliono imitare quelli che vengono chiamati i santi nel cattolicesimo o di altre religioni come Gandhi sbagliano grandemente, perché da Dio non ci è dato altro modello di santità che Gesù. Siate dunque imitatori di Dio come figli carissimi. Efe 5.1.1 Co. 4.1.6, scrive l'Apostolo Paolo. E se per caso queste persone avessero fatto o detto cose che sono da imitare, non saranno solo loro il nostro modello, ma Gesù stesso, del quale a loro volta questi avranno ricalcato le orme. Quando l'Apostolo Paolo ordinava i credenti ad imitarlo, non lo faceva perché ritenendo se stesso il giusto riferimento morale per altri, ma perché lui stesso prendeva proprio modello Cristo. Siate miei imitatori, come anch'io lo sono di Cristo. 1 Co. 11.1. Dato questo per scontato, se guardiamo la vita di Gesù, tra tutte le caratteristiche di santità da imitare, una delle prime è certamente l'umiltà. Gesù stesso lo affermò: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Mt 11.2.8.30. Questo appello di Gesù è molto noto, specialmente nell'ambito religioso cristiano, eppure molto probabilmente è il meno applicato dai credenti. Non a caso rappresenta la prima beatitudine pronunziata da Gesù sul monte: beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Essere poveri in spirito non significa ritenersi ignoranti e dimostrare continuamente di essere degli allocchi, ma considerarsi incapaci, limitati, bisognosi di santificare il nome di Dio. Significa essere coscienti della propria fragilità e nullità, Solo con questa premessa è possibile essere mansueti nella mani di Dio. Sono convinto che una simile conclusione non dice nulla di nuovo, perché l'umiltà è il cavallo di battaglia in tutti gli ambienti religiosi, ma qualcosa non mi torna. Sono troppi coloro che sono pieni di sé mostrando una autosufficienza che è possibile definire diabolica. Perciò, se è vero che non è possibile amare Dio se non si ama il prossimo, 1 GV 4.20, se è vero che non si può avere una fede celeste se non si ha fede nelle cose terrene, GV 3.12, è anche vero che chi si sente autosufficiente in questa vita lo è anche nei confronti di Dio e quindi non può dipendere da Cristo. Basta osservare per credere. Perciò, se vuoi santificare il nome del Padre, guarda prima di tutto se compi la sua volontà con la sottomissione a Cristo Gesù. La seconda richiesta in merito alla preghiera da rivolgere al Padre nostro secondo quanto ordinato da Gesù è: venga il tuo regno. Se il nostro orecchio non ha ancora fatto l'abitudine a queste parole, la prima cosa sorprendente in questa richiesta è che nel campo divino si parli di regno. Quando nel nostro più profondo essere il modello di convivenza più perfetto sta nella democrazia. Per quale ragione? Perché il concetto ideale di democrazia dovrebbe renderci tutti pari, nessuno è sopra e nessuno è sotto, nessuno è povero e nessuno è ricco. Senza nulla togliere al giusto ideale della democrazia, una convivenza del genere non è possibile nel modo più assoluto. Per prima cosa, perché in seno alla Trinità, dove Padre, Figlio e Spirito hanno la più perfetta armonia e comunione, non esiste la democrazia intesa come uguaglianza, poiché è il Padre che ha mandato suo Figlio a morire sulla croce, e il Figlio è colui che ha ubbidito e ubbidisce. In questo senso, Gesù ha dichiarato: avete udito che vi ho detto, io me ne vado e tornerò a voi. Se voi mi amaste, vi rallegrereste, perché ho detto, io vado al Padre, poiché il Padre è più grande di me. GV 14.28. Per questo principio Paolo ha scritto ai credenti di Corinto: voglio però che sappiate che il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. 1 Co 11.3. Con questa attuale prospettiva, parlando degli eventi ultimi futuri, Paolo conclude dicendo che Cristo rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre, dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza. 1 Co 15.24. E ancora, il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. 1 Co 15.28. Queste sono verità celesti che non dovrebbero mai essere dimenticate, soprattutto quando si parla del Dio Trino e qualsiasi spiegazione si possa dare. Non possiamo certamente discostarci dal fatto che esiste il regno di Dio, dove ci è chi comanda e chi ubbidisce. Come spiegare allora che crediamo in tre persone uguali in quanto a natura, anche se distinte in quanto a relazione? La spiegazione è la seguente. Fin dall'eternità Cristo è, per posizione, subordinato a Dio Padre. Nella redenzione, incarnandosi, egli cambia la sua sovranità in servitù, sottoponendosi al Padre rimasto nella gloria del cielo. Filippesi 2, 5-8. La subordinazione del Figlio al Padre si realizza dunque fondamentalmente nell'ambito delle funzioni e delle attività, permettendo così al Padre di essere ufficialmente il primo e al Figlio di essere il secondo, in perfetta coerenza con l'uguaglianza. La precedenza non è infatti necessariamente indice di superiorità. Se esiste una gerarchia nell'ambito di Dio, per forza di cose esiste e deve esisterne una anche nel campo del creato e delle creature, e soprattutto nella razza umana, perché l'uomo, cioè il maschio, e la femmina sono stati fatti ad immagine di Dio. Chi vuole poi a tutti i costi un'uguaglianza nelle relazioni umane cerca un'utopia bella e buona, perché dalla nascita fino ad una certa età il bambino per forza di cose deve ubbidire all'autorità dei genitori. Cosa sarebbe il mondo sociale se non ci fosse chi comanda e ti ubbidisce? E quindi saggio accettare che esista il regno di Dio dove lui comanda. Già il verbo comandare dà di per sé fastidio a molti meno, cioè a chi deve ubbidire meno. Ma per quanto l'uomo non voglia, è costretto a riconoscere che in questo mondo non comanda lui, anche se ha dei poteri di comando. Pilato pensava di essere qualcuno, perciò disse a Gesù che si trovava davanti a lui legato: «Non mi parli? Non sai che io ho il potere di crocifiggerti e il potere di liberarti?» Ma Gesù gli rispose: «Tu non avresti alcun potere su di me se non ti fosse dato dall'alto. Perciò chi mi ha consegnato nelle tue mani ha maggior colpa». GV 19.1011. Questa è la situazione attuale del mondo. Il diavolo, i suoi emissari e gli uomini, per quanto convinti di essere liberi, si esprimono sotto il governo di Dio, il quale, nella sua infinita sapienza e giustizia, li lascia anche compiere cose malvagie. Il profeta Geremia, che ha visto l'afflizione sotto la verga del suo furore, la 3.1, quando la città di Gerusalemme fu presa, dopo anni di resistenza nei quali le donne hanno mangiato i loro figli, altre violentate, bambini schiacciati, vecchi vilipesi, dovette dire: «Quando uno schiaccia sotto i suoi piedi tutti i prigionieri della terra, quando uno perverte il diritto di un uomo alla presenza dell'Altissimo, quando si fa torto ad un uomo nella sua causa, il Signore non lo vede? Chi mai dice qualcosa che poi si avvera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca del Porin Altissimo?» La 3.3438, Is 42.24. Questo è già il regno di Dio, perché Egli regna su tutto e su tutti, e nessuna foglia cade a terra che Dio non voglia. Questa è la prima cosa della quale debba essere cosciente una creatura quando prega con le parole insegnate da Gesù nel Padre nostro. Se non conosce questo aspetto di Dio, non può certamente comprendere l'altro aspetto del regno di Dio. Il regno di Dio è una espressione di vasta portata e si riferisce ad ogni ambito dove Dio regna. Per questo Gesù poteva dire ai farisei che il regno di Dio era in mezzo a loro, e Matt 18.28, ai discepoli. Disse che era dentro di loro, LC 17.21, mentre nella preghiera del Padre nostro disse che doveva ancora venire. Nessuna contraddizione, ma unicamente una carrellata dei tanti aspetti della stessa verità. Qual è dunque il regno di Dio che dobbiamo pregare perché venga? Senza ombra di dubbio, l'espressione si riferisce al periodo nel quale tutte queste cose terrene termineranno, quando Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, e le cose di prima non si ricorderanno più e non verranno più in mente. Is 65:17. Solo in quel periodo regnerà Dio senza alcuna interferenza da parte del diavolo e da parte dell'uomo. In quel regno perfetto Dio abiterà con gli uomini, essi vedranno la sua faccia e lo serviranno, ci sarà piena giustizia. 2P 3.13. Dio stesso asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. AP 21.3.4.22. Che regno meraviglioso! Nel cuore di tutti gli uomini vi è questo anelito posto da Dio. Anelito che sarà perennemente soddisfatto solo quando sarà arrivato il regno di Dio. Ma, intanto, il credente aspetta un altro regno, che deve realizzarsi su questa terra alla presenza degli uomini malvagi. È il regno di Cristo, rappresentato dal suo ritorno sulla terra dai cieli con la sua sposa, cioè i credenti, per regnare con loro 1000 anni. E questo è il regno al quale si riferivano i profeti prima della venuta di Cristo, Is 11.10, e questo è il regno che i credenti da 2000 anni aspettano per governare assieme a Cristo, App 20.6. È relativa a questo regno l'ultima invocazione che troviamo nelle Sacre Scritture, cioè la Bibbia, la parola di Dio. Colui che testimonia queste cose dice: «Sì, vengo presto. Amen. Sì, vieni Signore Gesù». App 22.20. Perciò, quando si prega il Padre che è nei cieli perché venga il suo regno, si prega perché la prima persona della Trinità sia tutto in tutti. 1 Co 15:28. Perché Cristo regni per 1000 anni e rimetta il regno nelle mani di Dio Padre, e perché attualmente lo Spirito Santo regni nel cuore dei credenti. In effetti, la vita cristiana può essere riassunta nelle parole di Gesù. Lo Spirito soffia dove vuole, e tu ne odi le parole, ma non sai da dove viene né dove va. Così è per chiunque è nato dallo Spirito. Che questo regno di Dio possa realizzarsi con potenza ogni giorno, nella vita dei riscattati da Cristo. La terza richiesta da fare, in preghiera quando ci rivolgiamo al Padre nostro, è: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Una tale richiesta presuppone in modo scontato che non sia la nostra volontà a dover essere soddisfatta. Di conseguenza, si dovrà prendere coscienza che l'eventuale esaudimento di una nostra volontà individuale rappresenterà unicamente un episodio in cui ci siamo trovati a richiedere qualcosa in armonia con la volontà di Dio. Questa prospettiva annulla completamente ogni nostro desiderio che non sia conforme al volere di Dio. Perciò, per quanto questa verità ci possa ferire nel profondo, la cosa più saggia è adempiere ogni istante il volere del Padre. Chi non ha questo obiettivo ha fallito lo scopo della sua vita. Per questo l'Apostolo Paolo ha scritto: «Non siate disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore», Efe 5:17. Anche se per alcuni sembra una cosa ovvia, sono pochissimi coloro che sanno qual è la volontà di Dio. E ne ho fatto l'esperienza più volte. Ci fu un periodo nel quale chiedevo a tutti se conoscevano la volontà di Dio. Distribuendo volantini dal titolo «La volontà di Dio», incontrai un sacerdote al quale porsi l'opuscolo, ma mi fece cenno di non gradirlo, quindi gli chiesi se conosceva la volontà di Dio. Ed egli mi rispose di no. Allora dissi: «Questo opuscolo fa per lei», lo prese. Devo confessare il mio stupore per quanta ignoranza ci sia in merito alla volontà di Dio. In una nazione come l'Italia, la quale, su affermazione dei politici e religiosi, ha le sue radici nel cristianesimo, fra i componenti del popolo che l'abita e che ha alla sua portata la Bibbia, udendola inoltre predicare almeno ogni domenica dai pulpiti del cattolicesimo romano, in qualità di parola di Dio, per una ragione che appare veramente assurda, quasi nessuno, almeno per la mia esperienza, sa dirmi, in poche parole, qual è la volontà di Dio. Se un religioso che ha studiato per insegnare agli altri il volere di Dio non conosce qual è la sua volontà, com'è possibile che conoscano il volere di Dio? Le persone semplici da questo, peraltro, istruite, si potrebbe rispondere che in un certo senso la volontà di Dio è quella espressa nella sua parola, e ciò è vero. Ma poiché da millenni la parola di Dio è stata interpretata variamente, poiché non tutti quelli che predicano il volere di Dio sono d'accordo, poiché sono innumerevoli gli studi dove si presentano per volontà di Dio cose sbagliate, poiché anch'io posso sbagliarmi, ho cercato nella Bibbia proposizioni che contenessero la dichiarazione «questa è la volontà di Dio», asserzione che non lascia possibilità di interpretazioni soggettive. Così ho trovato che vi sono almeno 7 dichiarazioni nella Scrittura nelle quali espressamente viene dichiarata qual è la volontà di Dio. Gesù disse: «Io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque viene alla conoscenza del Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». Giovanni 6:37-40. Se Gesù ha parlato della necessità di essere salvati, significa che la razza umana è perduta, al di là che questa possa essere o non essere religiosa. Perciò, la volontà di Dio è innanzitutto che chi pone fede in Cristo abbia vita eterna e sia da Lui risuscitato nell'ultimo giorno. In merito ai bambini, Gesù disse: «È la volontà del Padre vostro, che è nei cieli, che neppure uno di questi piccoli perisca», Matteo 18:14. Che consolazione per chi ha un aborto spontaneo o perde un piccolo bambino. Paolo scrisse in una lettera: «Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello». 1 Tess 4:1-8. Paolo ricorda che la volontà di Dio è la santità, E poiché essere santi è una espressione vaga, Paulos scende nel particolare, non fornicare, cioè avere rapporti sessuali fuori dal matrimonio, saper contenere le esigenze del proprio corpo, non imbrogliare. In seguito Paolo scrive, in ogni cosa, rendete grazie, perché tale è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. 5 e 18. La volontà di Dio è che i suoi figli siano riconoscenti in ogni situazione della vita. Così scrive ancora l'Apostolo Paolo a Timoteo. Questo infatti è buono ed accettevole davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e che vengano alla conoscenza della verità. 1 Timoteo 2:1-5. La volontà di Dio è che tutti gli uomini, e non solo alcuni, siano salvati. Anche l'Apostolo Pietro, nella sua prima lettera, scrive in merito alla volontà di Dio. Gesi, questa è la volontà di Dio, che, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. 1 Pt. 2:1/4. La volontà di Dio per i suoi figli è che non sovvertano le istituzioni pubbliche, perché ogni autorità è stata costituita da Dio per il bene della società, anche se la fede dei cristiani non lascia intatta nessuna costituzione. Perciò, è sempre volontà di Dio che i suoi figli facciano del bene per far tacere chi parla male di loro. Possiamo quindi dire che nella Bibbia, è vero, ci sono alcune cose difficili da capire, ma è altrettanto vero che questi aspetti della volontà di Dio sono di una chiarezza disarmante, per cui credere in Cristo, comportarsi giustamente, ringraziare Dio in ogni situazione, fare sempre del bene, rientra sempre nella precisa volontà di Dio. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Questa è dunque la terza richiesta da fare in preghiera. Quando ci rivolgiamo al Padre nostro, essa mette in evidenza che nel cielo si compie sempre la volontà di Dio. Questo è vero, ma occorre aggiungere anche che quando si parla dei luoghi celesti, questi non sono tutti proprietà esclusiva di Dio, per cui non sempre viene fatta la volontà di Dio. Come è possibile questo? Vi sono indicazioni nella Scrittura che portano a questa conclusione, per esempio la testimonianza di Paolo riguardo al suo rapimento fino al terzo cielo. 2 Cor. 12:2. Quindi, il cielo, descritto dalla Bibbia, non è un unico spazio tutto uguale nel quale abita Dio, perché vi è il cielo atmosferico, il cielo dove abita Satana o il diavolo, e, infine, il cielo abitato da Dio. Che vi sia il cielo atmosferico, nessuno lo pone in dubbio, mentre del cielo dove abita Satana con i suoi emissari ne fa accenno l'Apostolo Paolo nella lettera agli Efesini. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di quest'età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti, 6 e 12. Ma questa residenza non sarà per sempre, perché, come è scritto nel libro che parla del futuro, cioè l'Apocalisse, e vi fu guerra in cielo, Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Anche il dragone e i suoi angeli combatterono ma non vinsero e per loro non fu più trovato posto nel cielo. Così il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana che seduce tutto il mondo, fu gettato sulla terra. Con lui furono gettati anche i suoi angeli. Perciò, rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Ma guai a voi, abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di aver poco tempo. Apocalisse 12:7-12. Perciò, il diavolo che prima era alla presenza di Dio ed è stato cacciato dalla sua presenza, Luca 10:1-8, ora non è all'inferno a soffrire le pene eterne e, casomai, con Giuda in bocca secondo una rappresentazione proveniente dall'immaginazione dantesca, ma è nel secondo cielo, dal quale sarà cacciato anche lì. Tuttavia il credente non ha alcun timore perché continua a pregare che sulla terra sia fatta la volontà di Dio come fatta in cielo, cioè alla sua presenza, mentre egli stesso si prodiga per l'avanzamento del regno di Cristo, nel quale questa volontà sarà pienamente realizzata. Chi non ha questo in cuore non entrerà nel regno dei cieli, Mt. 7:21, mentre chi osserva la volontà di Dio è fratello e non cugino, sorella e madre di Cristo. C. È forse qualcosa di più grande? Con la quarta richiesta indicata da Gesù nella preghiera del Padre nostro iniziano le invocazioni in relazione alle nostre necessità, la prima delle quali è «Dacci oggi il nostro pane quotidiano». Questa preghiera assume aspetti diversi a seconda del periodo storico nel quale ci troviamo. All'inizio del XXI secolo, con la prosperità economica e lo spreco dei beni di consumo di prima necessità vigenti, per alcuni può sembrare molto superflua, mentre chi vive alla giornata privo del minimo necessario, reclamare il pane quotidiano e chiedere l'indispensabile. Ma poiché Dio non è legato a fattori storici, la richiesta del pane necessario ogni giorno va ritenuta valida in qualsiasi momento. E valida quando non si ha nulla, come quando si ha il superfluo, perché anche nell'abbondanza si ha bisogno di cose più necessarie di altre. Questo aspetto ci catapulta nella problematica se il pane da richiedere sia il pane, composto di grano, oppure rappresenti qualcos'altro di indispensabile. Può essere tutti e due, anche perché Gesù disse di essere il vero pane che veniva dal cielo. GV 6.32. Occorre però stare attenti al simbolismo, a causa del quale a volte nel volere dire di tutto si arriva a dire niente. Mentre altre si possono raggiungere concezioni errate. Ne costituisce un esempio il ben noto versetto citato da Gesù, replicando al diavolo, il quale lo sfidava a trasformare le pietre in pane. L'uomo non vive solo di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. MT 4.4. Gesù disse questo quando, dopo aver digiunato per 40 giorni, aveva fame. Il diavolo, colta l'occasione in questo suo bisogno più che naturale e lecito, gli suggerì di cambiare le pietre in pane con le sue capacità divine. In questo modo, Gesù avrebbe soddisfatto la sua fame e avrebbe avuto l'occasione di dimostrare orgogliosamente la regalità della sua persona quale unigenito figlio di Dio. Ma Gesù, servendosi di un'affermazione del libro della legge, non rispose meno come si pensa meno che l'uomo ha bisogno della parola di Dio, anche se è vero, e che l'uomo vive perché si nutre o cerca di mantenersi in vita, ma vive perché Dio lo vuole, perché è Lui a mantenerlo in vita. Gesù non aveva bisogno di preoccuparsi illecitamente del cibo, poiché Dio avrebbe, a suo tempo, provveduto. Infatti, dopo che il diavolo se ne fu andato, vennero gli angeli a servirlo. Se Gesù avesse trasformato le pietre in pane, avrebbe desiderato e ottenuto ciò che in quel momento non era lecito. Difficile dunque individuare sempre il vero pane a noi necessario, poiché tutti abbiamo occorrenze diverse. Così, piuttosto focalizzarci su cosa sia il pane, è meglio fare attenzione che la richiesta sia relativa alla quotidianità di quest'ultimo. Già questo aspetto ci spiazza perché tutti meno il primo sono io meno. Cerchiamo sempre una certa sicurezza in tutte le cose, soprattutto quelle indispensabili come il pane, per l'appunto. Perciò se chiediamo che il pane sia quotidiano significa che devo chiederlo ogni giorno. Cosa che meno io per primo meno non si fa. Gesù avrebbe potuto insegnarci a pregare per il pane settimanale o mensile, ma insegnandoci a pregare per un pane che sia giornaliero, ha voluto evidentemente esporci qualcosa di molto importante. Innanzitutto ad avere una totale dipendenza da Dio. E, qui, torniamo al punto iniziale. La disobbedienza di Adamo ed Eva all'Eterno reca in sé una causa che va oltre le motivazioni descritte dal testo biblico relativo, ossia perché il frutto era buono da mangiare, perché era piacevole agli occhi e desiderabile per diventare intelligenti. L'obiettivo di fondo era in realtà il desiderio di sganciarsi dall'autorità di chi li aveva creati, per diventare autorità a se stessi. In definitiva volevano essere indipendenti, e tali diventarono, perché l'Eterno Dio disse, «Ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quanto alla conoscenza del bene e del male». Ge 3.22. Ecco cosa successe nel giardino dell'Eden. L'uomo divenne un dio, o una divinità, un Elohim, realtà confermata da Gesù, quando rispose ai giudei dei quali era accusato di farsi dio, Non è scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, GV 10.35, e un Dio per essere tale deve avere una sua libertà e volontà, una volontà capace di opporsi alla volontà del Dio. Crino onnipotente, diversamente non sarebbe più una divinità. Così, dall'Eden in poi, la razza umana ha una propria volontà capace di contrastare quella del Dio Trino e, solo abdicando a tale volontà per sottometterla a Cristo, essa può di nuovo tornare in armonia con il suo Creatore. Ecco perché noi dobbiamo chiedere ogni giorno il pane che serve solo per il giorno stesso, perché in tale preghiera noi dichiariamo di dipendere totalmente da Dio. O Lui interviene, oppure a noi non resta altro che accettare ciò che non provvede. Infatti, la richiesta di darci il pane quotidiano non trova sempre garanzie di esaudimento. Ne abbiamo conferma anche dalle parole dell'Apostolo Paolo. Fino ad ora, noi soffriamo la fame, la sete e la nudità. Siamo schiaffeggiati e non abbiamo alcuna fissa dimora. E ci affatichiamo, lavorando con le nostre mani. Ingiuriati, benediciamo, perseguitati. Sopportiamo, vituperati, esortiamo. Siamo diventati come la spazzatura del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. 1 Co 4.1113. Ciò che ha detto Paolo può lasciare sbigottito qualche credente, perché sta scritto nei Proverbi che l'Eterno non permetterà che il giusto soffra la fame. 10.3. Ma tutto ciò che leggiamo e ogni promessa deve essere vista nel giusto contesto. La povertà e, quindi, la fame, è una delle realtà che il mondo ha sempre conosciuto, una verità che ben si armonizza a un altro insegnamento di Gesù. I poveri li avrete sempre con voi. MT 26:11-15:11. Perciò la promessa contenuta in Proverbi non è riferita ad una vita agiata destinata a tutti, nemmeno ai suoi figli, perché è lui stesso che fa il povero. PR 22:2. La sua promessa è che le circostanze non porteranno il giusto a soffrire la fame. Ma come conciliare tutto questo quando sappiamo che tanti credenti soffrono la fame? Non ne ha forse sofferto persino l'Apostolo Paolo? Se Dio è venuto meno alle sue promesse, come è possibile predicare la sua fedeltà? Non ha forse testimoniato il salmista: io sono stato giovane e sono anche diventato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato né la sua discendenza mendicare il pane? SL 37:25. Come possiamo vivere serenamente? Dio non permetterà che il giusto soffra la fame in un contesto di vita normale, ma in caso di persecuzione e a motivo del regno di Dio, come le circostanze dell'Apostolo Paolo, il giusto può anche soffrire la fame. Ecco come lo stesso Paolo scrisse ai Filippesi: perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. FL 1:29. Proprio per questo motivo, dobbiamo ritenere che se il giusto soffre la fame in un contesto di vita normale, ci è qualcosa di anomalo, o i giusti non sono giusti, e questo lo sa solo Dio, oppure per non cadere in facili giudizi, accettiamo che molte sofferenze ci capitano anche perché manchiamo di usare le cautele più elementari nella vita: accortezza, buonsenso, prudenza. Il Dio che si è rivelato sul Monte Sinai ha fatto altre due promesse molto preziose per il pellegrinaggio terrestre dei suoi figli. Egli non permetterà che il giusto vacilli. SL 55:2-221:3. Né che siamo tentati oltre le nostre forze. 1 Co 10:13. Tre cose che Dio non permette. Crediamolo, e quando pregheremo dacci oggi il nostro pane quotidiano, non saremo colpevoli di quell'ateismo giornaliero che accompagna molti credenti, la fede dei quali si fonda solo nel passato e nel futuro, ma vedremo la tavola bandita da Dio e pure i nostri nemici la vedranno. SL 23:5. La quinta richiesta indicata da Gesù nella preghiera del Padre nostro è: perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori. Delle sette richieste, forse questa è la più impegnativa in relazione a cosa in concreto si debba chiedere, anche se apparentemente sembra la più facile. Bisogna chiedere che Dio ci perdoni o ci rimetta i nostri debiti come noi facciamo con i nostri debitori, no? Certamente. Però prima occorre sapere cosa sono i debiti, se è giusto che chiediamo a Dio di perdonarci quando già siamo stati perdonati. E cosa significa perdonare al mio prossimo i peccati? Dal momento che solo Dio perdona i peccati. Per prima cosa possiamo dire che la parola debiti usata da Matteo è il regolare termine aramaico che sta per peccati, tanto è vero che nel Vangelo di Luca leggiamo perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Ma è giusto chiedere perdono dei propri peccati, quando il Vangelo, cioè la buona notizia, ci dice che Dio ha perdonati tutti i peccati agli uomini in Cristo riconciliandoli con Lui? Paolo si è espresso molto chiaramente, Dio ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione, poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e noi vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. 2 Co. 5.1820. Dunque, il peccato per Dio non è più un problema, perché lo ha definitivamente tolto per mezzo del sacrificio di Gesù Cristo. Di conseguenza, l'uomo non resta che accettare tale perdono e riconciliarsi a sua volta con Dio. Questo è possibile quando una persona si riconosce peccatrice perduta e, vedendo in Cristo la sola soluzione per ottenere la salvezza eterna, lo invoca come unico Salvatore e Signore. Da quel momento il credente ha la certezza che tutti i peccati, passati, presenti e futuri, sono stati già perdonati 2000 anni fa. E se sono stati perdonati, perché chiedere ancora al Padre nostro meno, secondo l'insegnamento di Gesù, di perdonare i nostri peccati? Potrei anche comprendere che Gesù abbia ordinato di chiedere perdono a Dio, ma non posso capire di doverlo richiedere ogni volta che ripeto il Padre nostro, perché, se così fosse, devo concludere che Gesù non abbia perdonato tutti i peccati da me commessi ogni giorno. Perciò, la risposta ai nostri interrogativi deve essere cercata altrove, soprattutto nella più semplice e elementare regola ermeneutica, in virtù della quale ogni parola ha più significati, come il termine salvezza che si riferisce tanto al perdono dei peccati quanto a sicurezza, liberazione, guarigione, vittoria e prosperità. Diversamente, se la salvezza fosse riferita solo all'evitare la condanna eterna, non potremmo capire quando Paolo dice che la donna sarà salvata partorendo figli, un terametro 2.15, intendendo, così, che eviterà una vita corrotta, dedicando la sua vita al nobile compito di partorire figli e allevarli. Perciò il termine perdonare non ha solo il senso di condonare in sé la colpa, ma anche quello di non imputare le conseguenze della colpa. Se per esempio una ragazza viene stuprata, potrà non solo non imputare la colpa al suo stupratore, ma meno se lo vorrà meno potrà anche non pretendere di essere risarcita con del denaro o non volere che sia colpevolizzato dalla legge. La ragazza o la donna avrebbero già perdonato nel non imputare la colpa, ma il perdono sarà totale solo quando chi ha subito riterrà lo stupratore come un innocente, cioè qualcuno senza colpa, senza debiti. Infatti, il perdono totale è solo quando non ritengo più debitore di nulla nei miei confronti colui che mi ha arrecato un danno morale o fisico, per quanto grave quest'ultimo possa essere. Ecco il termine opportuno, debitore, termine che troviamo nella preghiera che Gesù ci ha insegnato. Perdona i nostri debiti, cioè non farci portare le conseguenze dei nostri errori. Ne abbiamo un bellissimo esempio nella chiamata rivolta da Gesù a Pietro in seguito al tradimento di questo. I Vangeli ci riportano laboriosa affermazione di Pietro, convinto che non avrebbe mai tradito Gesù, anche se pochi hanno presente che tutti i discepoli dissero la stessa cosa, meno Matt 26.35, e anche che non lo avrebbe mai rinnegato, Eppure dopo la sua resurrezione Gesù lo riabilitò chiamandolo al suo servizio. Gesù perdonò Pietro, ma avrebbe potuto metterlo da parte per averlo rinnegato e per aver dimostrato poca coerenza. Invece lo perdonò in modo completo, non facendogli portare le conseguenze del suo operato. Questo non lo fece con tutti, perché cercò di fare morire Mosè per non aver circonciso suo figlio, e non lo fece entrare nella terra promessa per una sola mancanza di fede. È vero, Dio fa misericordia a chi vuole. Se essere perdonati da Dio significa anche non portare le conseguenze dei nostri errori, va da sé che, se chiediamo in preghiera perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, vuol dire che cercheremo, se è possibile, meno non far portare a chi ci ha fatto dei torti le conseguenze dei propri errori. Questo aspetto rende molto più solenne e nobile la preghiera in merito ai debiti o peccati, andando molto oltre il concetto di perdono insito nella nostra cultura. Si può perdonare ed essere in pace, perché non si ritiene più il prossimo debitore nei nostri confronti, ma è possibile però covare ancora nel profondo del nostro cuore il desiderio di rivalsa, e cioè che almeno chi ha compiuto il male riceva la giusta retribuzione. Sentimento molto sottile e che io ho dovuto scoprire meno, o meglio, lo Spirito Santo me lo ha rivelato meno con un grande sforzo di onestà intellettuale. Perciò, quando chiediamo al Padre nostro di perdonarci i peccati come anche noi perdoniamo ai nostri debitori, in definitiva stiamo chiedendo a Dio di trattarci come noi trattiamo gli altri. Siamo coscienti di chiedere questo? Siamo proprio sicuri di volere che Dio ci tratti come noi trattiamo gli altri? Abbiamo mancato di perdonare a volte a chi ci ha fatto dei torti. Dio farà lo stesso. Abbiamo anche voluto che gli altri ricevessero il frutto dei propri errori. Dio farà lo stesso, ecco perché è saggio non lamentarsi quando riceviamo dei torti. E se fossero il risultato della risposta alla preghiera di perdonaci i nostri debiti, come anche noi perdoniamo i nostri debitori? Forse facciamo fatica a crederci, ma Dio ascolta le preghiere molto più di quanto noi pensiamo. Soprattutto quando chiediamo secondo la sua volontà, con le sue stesse parole. Anche se la teologia del perdono è stata alterata dal cattolicesimo romano che vede nel sacerdote l'autorità di perdonare i peccati, prerogativa questa esclusiva di Dio, resta pur sempre vero che qualsiasi uomo può e deve rimettere i peccati altrui, perché, come continua Gesù nella preghiera del Padre nostro, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Mt. 6.1415. È molto triste che il romanesimo abbia stravolto le cose, ma se gli uomini prendessero sul serio ciò che ha detto Gesù, ci sarebbe una convivenza migliore. La sesta richiesta da rivolgere al Padre nostro è: non indulci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Poiché questa richiesta è articolata in due parti, prenderemo in esame la seconda più avanti come settima da formulare in preghiera quando si pronuncia il Padre nostro. Una prima difficoltà nel pregare non indulci in tentazione è data dal fatto che altrove nella Scrittura troviamo affermato in modo inequivocabile che Dio non tenta nessuno e non può essere tentato. Per dissipare ogni dubbio in merito alla tentazione, nella sua lettera Giacomo ha scritto: nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Gc 1:13. L'espressione di Giacomo mette in evidenza che anche i primi cristiani avevano alcuni interrogativi in merito alla tentazione, davanti ai quali l'Apostolo è categorico: anche se l'incomprensibile mondo della tentazione vi è oscuro, sappiate che essa non proviene e non può procedere da Dio. Perciò chiedere a Dio di non indurci in tentazione quando sappiamo che Dio stesso non tenta nessuno è una contraddizione da risolvere. Come comportarci? Non facciamo la preghiera, oppure Gesù ci ha insegnato qualcosa di inesatto? La risposta è più semplice di quello che sembra. Quando ci sono difficoltà nella comprensione del testo biblico, è saggio tenere presente almeno tre regole. Se è possibile, esaminare il testo originale, consultare altre

della lettera agli ebrei non lascia dubbi. Infatti, poiché egli stesso, cioè Gesù, ha sofferto quando è stato tentato, può venire in aiuto di coloro che sono tentati. Ebrei 2.18. Gesù Cristo fu tentato, avendo, come ogni altro essere umano, la possibilità di cadere. Diversamente, se non fosse stato uomo in tutto per tutto, non avrebbe potuto salvare la razza umana. Il mondo invece è tutto ciò che ci porta lontano da Cristo. Resta un altro interrogativo da chiarire. Cosa si intende per tentazione? La tentazione è sinonimo di prova? Se abbiamo le idee confuse e non sappiamo quali sono gli ambiti di applicazione di questi due termini, possiamo a volte considerarli interscambiabili. Per cercare di capire un pochino meglio l'ambito di applicazione dei due termini, occorre ancora una volta vedere il testo greco. Il termine dal quale traduciamo prova e tentazioni in greco è identico, e apparentemente anche qui non abbiamo nessun ausilio. Ma se noi andiamo invece a considerare il verbo greco dal quale deriva questo sostantivo, vediamo che esso, dal punto di vista grammaticale, offre due possibili costruzioni diverse. Si può costruire al caso genitivo, dandogli un significato di mettere alla prova, saggiare, sperimentare, e all'accusativo, dove assumerebbe il senso di rompere, cercare di corrompere, cercare di distruggere. Quindi sono due significati diversi. Tenendo presente questa distinzione, quando preghiamo di non indurci in tentazione, dobbiamo avere nella nostra mente l'idea che stiamo chiedendo a Dio di non indurci su di un cammino distruttivo o dannoso per noi, mentre dobbiamo essere pronti a permettergli di sperimentarci, di saggiarci, soprattutto mediante la sofferenza. E anche nella sofferenza comprendiamo che la nostra preghiera rivolta al Padre perché non ci esponga alla tentazione è rivolta a un Dio che non ci espone con il desiderio brutale del sadico, ma con l'amore irresistibile dell'innamorato. E se anche dovessimo andare, come per l'Apostolo Pietro, là dove non vorremmo, G.V. 21:18, la nostra fiducia in un Padre amorevole non verrà meno. Con le idee chiare, la prossima volta che ci troveremo nella sofferenza o nelle difficoltà che ci aiutano a crescere nella fede, ringraziamo il Padre nostro perché ha risposto alle nostre preghiere. La settima richiesta da rivolgere al Padre nostro, secondo l'insegnamento di Gesù, è «Liberaci dal maligno». Essendo questa richiesta il seguito della precedente, rileggiamo questa parte della preghiera nel suo insieme. «Non indurci alla tentazione, ma liberaci dal maligno». Dunque, il credente chiede prima di tutto di non trovarsi in occasioni nelle quali sia tentato a disonorare Dio e, di conseguenza, di essere liberato dal maligno o dal male, in linea con altre traduzioni. Anche questa richiesta non è poi così facile da intendere, perché se ci è una promessa sicura da parte di Bien, Gesù è che nessuno può rapire il credente dalle mani di suo padre, GV 10.29. Perciò, domandando di essere liberati dal maligno, pare voler affermare che quest'ultimo sia stato in grado di strapparci dalle mani del nostro Salvatore, al quale ora ci rivolgiamo per essere svincolati. Infatti alcuni credenti ritengono che il credente possa essere impossessato dal maligno, credono che il diavolo possa governarne la vita. Mentre in tutta la scrittura viene detto che quando Gesù ha riscattata un'anima dal potere di Satana, questa non appartiene più al nemico delle anime, ma per l'eternità appartiene a Cristo, GV 8.35. È vero che il credente può ancora cadere nella trappola del diavolo? Può anche essere un suo strumento, come nel caso di Pietro che si comportò da avversario, cioè da diavolo, nei confronti di Gesù, MT 16.23, ma questo sarà un caso molto raro e sporadico, e non una continuità in modo che il diavolo faccia di lui quello che vuole. Dobbiamo rispettare la differenza che ci segnala la Scrittura. Secondo la parola di Dio, salvato è colui che viene strappato dal regno di Satana per essere inserito nel regno di Dio, CL 1.13, è colui che aveva un cammino perverso, ma ora vive secondo il volere di Cristo. Ne consegue dunque che chi è ancora condotto dal diavolo non è un figlio di Dio, anche se dice di esserlo. È importante prendere seriamente in considerazione questo aspetto, perché vi sono alcuni che fanno quello che vogliono e credono di essere in regola con Dio o di appartenergli. Questi possono pregare di essere liberati dal maligno finché vogliono, ma la loro richiesta non solo mancherà nell'esaudimento, anzi neppure sarà ascoltata, perché non si sono sottratti dal laccio del diavolo che li ha fatti prigionieri affinché facciano la sua volontà. Deuterometri 2.26. Solo il credente che con un atto di volontà si è sottomesso a tutto il voler di Cristo può pregare di essere liberato dal male o dal maligno, ed è sicuro di essere esaudito, perché Satana non ha nessun potere su di lui. Cosa si chiede allora a Dio quando si prega «liberaci dal maligno»? Cosa chiese Gesù al Padre per i suoi discepoli quando chiese di preservarli dal maligno, dal male o da ciò che è cattivo? Gvienta 17.15. Forse una vita agiata senza tribolazioni? Leggendo le lettere di Paolo, nelle quali spesso parla della sua vita, possiamo avere una idea al riguardo. A Timoteo, un suo figlio spirituale, l'apostolo, ha scritto: «Ma tu hai seguito da vicino il mio ammaestramento, la mia condotta, i miei consigli, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia perseveranza, le mie persecuzioni, le mie sofferenze che mi sono accadute ad Antiochia, a Iconio e a Listra. Tu sai quali persecuzioni ho sostenuto, ma il Signore mi ha liberato da tutte». Deuterometri 3.1011. E ancora: «Il Signore però mi è stato vicino e mi ha fortificato, affinché per mio mezzo la predicazione fosse portata a compimento e tutti i gentili l'udissero, ed io sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà ancora da ogni opera malvagia e mi salverà fino a portarmi nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen». Deuterometri 4.1718. Dunque, Paolo ha usato il verbo liberare per dire che nelle persecuzioni, nelle sofferenze, è stato vittorioso e non vittima delle circostanze, e che il diavolo non ha avuto potere su di lui. Infatti, le parole appena citate sono state le ultime da lui scritte prima di morire, circostanza nella quale poté anche affermare: «Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede». Deuterometri 4.7. Dunque, essere liberati dal male non significa non passare per la sofferenza, ma come Jan Hus, che fu bruciato vivo, alzare anche l'ultimo respiro a Dio in preghiera, perché la sola esistenza degna di essere vissuta è quella di rimanere nonostante tutto in comunione con Dio tramite Cristo. Quando l'apostolo Paolo disse «il Signore mi libererà», ci si poteva aspettare che si riferisse a qualche sofferenza o a qualche situazione difficile, ma il seguito della sua speranza rivela una attesa che solo un vero cristiano può avere, e cioè: «mi libererà da ogni opera malvagia». Che mirabile prospettiva! Riflettiamoci bene: preferiamo essere santi, compiere la volontà di Dio o evitare la sofferenza? Il vero e profondo desiderio di Paolo era santificare il nome di Dio, proprio in corrispondenza con quanto il credente è tenuto a richiedere nel Padre nostro, volontà dimostrata dall'apostolo con una vita di servizio piena di tribolazioni a causa di Cristo e il suo regno. Abbiamo noi questa determinazione? Prendiamo sul serio l'ordine dell'apostolo Pietro, al quale pure le pene erano ben note? «Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare, per vivere il tempo che resta nella carne non più nelle passioni degli uomini, ma secondo la volontà di Dio». 1 Pt 4.12. Vi è un'ultima riflessione da fare. Se noi non possiamo fare quello che spetta a Dio, Dio stesso non farà mai quello che spetta a noi. Questo è il cristianesimo: ognuno il suo compito e armonia tra creatore e creatura. Infatti il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati, e per questo ha mandato suo figlio per riconciliare il mondo a sé, ma ha affidato ai suoi seguaci il compito di dirlo a tutti. Cosicché, se il credente non può morire in croce per salvare l'umanità nella sua sovranità, Dio stesso ha deciso di presentare questa riconciliazione tramite la pazzia della predicazione. Un dovere affidato al credente stesso. Stessa cosa è per la santità. L'ordine di Dio è quello di essere santi, LV 11, 44.1 PT 1.15, e per questo libera i P dalla prova, 2 PT 2.9, non permette che siano tentati oltre le loro forze nelle tentazioni, ma con la tentazione gli dà la via di uscirne per poterla sopportare, 1 Co 10.13. Ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Chi ha posto fede in Cristo, se vuole essere liberato dal maligno o dal male, deve innanzitutto tenere presente che come è stato perdonato per grazia, deve anche lui perdonare il prossimo. Deve tutti i giorni ricevere forza, conoscenza e istruzione, mediante la lettura e lo studio della parola di Dio e la preghiera, privata e comunitaria, come non deve avere nessuna amarezza e nessun cruccio. Inoltre, come sta ancora scritto, non deve dare luogo al diavolo, il che vuol dire parlare o comportarsi in modo tale che il diavolo abbia occasione di tentarlo. Deve odiare il male e attenersi fermamente al bene, RM 12.9. Se non si fa così, inutili sono le preghiere per chiedere a Dio di essere liberati dal maligno. E per terminare queste riflessioni è necessario notare che il Padre nostro scritto da Matteo si distingue quello di Luca nelle parole di chiusura, perché tuo è il regno, e la potenza e la gloria in eterno. Amen. Questa conclusione ha lo stesso valore morale, spirituale e teologico di tutte le parole precedenti, e meno a mio avviso, costituisce una ottava preghiera il cui contenuto ci indica di ricordare che, alla fine, dopo tutto, dopo ogni conclusione, ogni ragionamento morale e teologico, il regno, cioè il dominio, la potenza, cioè l'autorità, e la gloria, come la fama, l'esaltazione e la celebrità, devono essere elusivamente del Padre nostro. Ne tengano presente il cattolico, il protestante, l'ortodosso e chiunque si ispira alla preghiera del Padre nostro, perché, se molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia, GM 5.16, cioè nel modo rilevato nel corso di questo studio, è altresì vero che, se uno volge altrove l'orecchio per non ascoltare la legge, la sua stessa preghiera sarà un abominio, Proverbi 28.9, che la preghiera del Padre nostro non si trasformi in una condanna per noi. Marzo 2009, L. Ro.